Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia Focus Economia. I temi di questa giornata economica finanziaria: parleremo di Europa, perché c'è stato l'intervento del Papa a Strasburgo e ha definito l'Europa stanca e invecchiata, non l'Europa in sé, l'Unione Europea, perché e ha puntato il dito proprio su quelli che ha definito tecnicismi burocratici. Gli ideali dell'Europa sono stati oscurati dai tecnicismi burocratici. Il Papa chiaramente non ha un rilievo economico, però è importante che anche nell'intervento di Papa Francesco all'Europarlamento venga sottolineato come i tecnicismi burocratici allontanano i cittadini europei dagli ideali dell'Europa. Parleremo di Europa, però non solo per questo, chiaramente, ma soprattutto perché iniziano a uscire le prime indiscrezioni su quello che dovrebbe essere il piano di investimenti, quello famoso che il neopresidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, presenterà domani a Strasburgo. Secondo le anticipazioni del Financial Times, infatti, di soldi veri, come noi temevamo, quindi soldi pubblici che fanno parte della disponibilità europea, saranno molto pochi, 21 miliardi di euro, per attrarre però investimenti che si presume arrivare fino a 315 miliardi di euro. I fondi arriveranno 16 dal bilancio europeo, 5 dalla Banca Europea degli Investimenti, saranno il capitale di base che, grazie a un effetto leva, dovrebbe mobilitare la cifra totale. Il fondo si dovrebbe chiamare Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, 21 miliardi, che rappresenteranno una garanzia di capitale che si assumerà i rischi che gli investitori attualmente non vogliono correre. Arriveremo subito al tema, scusatemi. E tra l'altro i fondi che arriveranno dai governi nazionali per finanziare questo, diciamo, nuovo fondo saranno non calcolati nel deficit, quindi non saranno scomputati dal calcolo del deficit, quello per capire se un paese rispetta il tetto del 3% oppure no. Tra l'altro l'Italia è il paese che più ne ha mandati di progetti, in tutto sono 1.800 per un 1.100 miliardi. L'Italia ne ha mandato progetti per un totale di 87 miliardi di euro, settore energia, economia digitale, salute, ambiente, trasporti. Poi vi arriveremo. Altro tema, chiaramente, il voto che c'è in questo momento sul Jobs Act. Allora, non siamo ripreso alle 15 nell'aula della Camera l'esame della riforma del mercato del lavoro. Resterebbero da votare, mi sembra, ancora una sessantina, forse un po' di meno a questo punto, ordine del giorno, e poi verso le 18:30, ma è difficile dirlo, il voto finale. Ci collegheremo anche per avere gli ultimi aggiornamenti e poi parleremo anche di cosiddetta macroeconomia. Perché oggi c'è più di una notizia su questo: da un lato il PIL americano, dall'altro l'allarme di Moody's sulla crescita nell'area euro, anche se Moody's è l'agenzia di rating, una delle tre agenzie di rating mondiali, ammette che la crescita americana aiuterà anche il resto della ripresa mondiale, e il giudizio poi dell'OCSE sulla crescita economica, che l'OCSE stima che noi l'anno prossimo non andremo oltre lo 0,2%. Quindi siamo, rispetto allo 0,6 del governo, allo 0,4 di altri istituti, siamo già bassi, e nel 2016 a un più 1%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo dai mercati, bene, poi lo racconteremo, lo spread e il rendimento dei nostri titoli di Stato. Per quello che riguarda i mercati, Milano leggermente positiva, più 0,27%, però sempre sul fronte delle borse segnalo che e sui titoli, Parigi in questo momento fa più 0,11%, Francoforte più 0,70%, e per quello che riguarda invece Londra siamo sostanzialmente a un meno 0,11%. We'll be right back. i titoli: CNH Industrial meno 1,60, World Duty Free meno 1,5, Todds meno 1,45, Tenaris meno 1,20, Monte dei Paschi meno 1,1, Ferragamo meno 1, Jux meno 0,90, Eni meno 0,60. Bene invece Autogrill più 2,44, Popolare Emilia Romagna più 1,90, Media 7 più 1,70 e ancora Ubibanca più 1,50, Enel più 1,40 come Mediolanum, Intesa San Paolo più 1,20, Exor più 1,1 e ST Microelectronics più 1%. Ancora, dicevamo delle notizie che riguardano i titoli di Stato italiani, adesso vi arriveremo, però oggi il rendimento dei BTP ha toccato un nuovo minimo al 2,16% e lo spread con il rendimento dei titoli tedeschi è sceso sotto i 140 punti a 139 punti. Veniamo alle notizie internazionali come sempre in apertura. Allora, la capitalizzazione di mercato di Apple ha raggiunto i 700 miliardi di dollari per la prima volta nella sua storia, è spinta dalla corsa dei titoli, quest'anno sono cresciuti del 49%. Sostanzialmente Apple vale il 70% in più di Exxon, che è la seconda maggiore società quanto a capitalizzazione di borsa, che vale sostanzialmente, è ferma una capitalizzazione di mercato di 400 miliardi di dollari. E dagli Stati Uniti però arriva la notizia che il PIL americano è andato nel terzo trimestre dell'anno oltre le attese, più 3,9%, c'era un'attesa di un più 3,5%. A spingere l'economia americana sono soprattutto i consumi, cioè tutto l'opposto di quello che sta capitando da noi, cresciuti di quasi il 5%, le importazioni più 0,7%. Praticamente negli ultimi due trimestri gli Stati Uniti hanno segnato e registrato l'andamento migliore come semestre dal 2003. E dicevamo del giudizio dell'agenzia di rating Moody's: la crescita americana aiuterà, visto che continuerà secondo Moody's anche nel 2015, aiuterà la ripresa a livello mondiale, però quando poi Moody's si occupa dell'area euro sono dolori, nel senso che dice che Italia e Spagna sono vulnerabili, anzi l'Italia è uno dei paesi dell'area euro più esposti a un potenziale cambiamento dei flussi finanziari, nonostante la Banca Centrale Europea, nonostante l'attività della Banca Centrale Europea, pesa il rifinanziamento del debito italiano che è in massimi e toccherà il massimo nel 2015, il rifinanziamento lordo, un totale del 29% del PIL italiano. E poi Moody's aggiunge: le riforme e il risanamento in Italia sono incompleti, c'è una seria minaccia alla crescita futura del paese, resta uno dei più vulnerabili ai mercati, l'andamento dei mercati finanziari. Di Italia si occupa oggi anche l'Ocse, che giudica il programma di riforma del governo italiano giusto, corretto, ma deve essere portato avanti con determinazione insieme all'efficace implementazione delle riforme precedenti. E fin qua, diciamo, siamo all'ovvio. Dice l'Ocse che l'Italia tornerà a crescere nel 2015 dello 0,2% e nel 2016 appunto dell'1%. E dice poi che l'area euro è a rischio deflazione se la crescita continuerà a stagnare, visto che le aspettative sull'inflazione scendono ulteriormente. La pensa in maniera diversa però la banca centrale tedesca, la Bundesbank, perché dice: attenzione, il rischio di deflazione non è particolarmente alto, ed è questo l'argomento che utilizziamo quando discutiamo di politiche monetarie. E sappiamo che il rischio c'è, ha aggiunto la vicepresidente Claudia Buch. Sappiamo che il rischio c'è, dicevo, ma non è così significativo da dover prendere iniziative specifiche. La discussione sul tema della deflazione è esagerata. Nel frattempo

E ne parleremo, avremo ospite di nuovo il segretario della FABI, che è il principale sindacato del settore. Però, come sempre, inizio programma i 100 secondi di Radio 24 e quindi i commenti, il punto sui temi di carattere economico fatto dai vice direttori del Sole 24 Ore. Oggi Alberto Orioli su una cosa che, ahimè, speriamo venga sanata, ossia l'ennesimo pasticcio sulle pensioni d'oro. Scopri le automatiche Saeco, con macine in ceramica per offrirti in ogni momento il tuo espresso autentico. Saeco regala Pellini. Regolamento su philips.it/promozioni. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. L'eterno rosario italiano delle riforme delle pensioni ha prodotto l'ennesimo paradosso di cui si sta occupando in queste ore la Camera, dove è in discussione la legge di stabilità, cioè la legge quadro sui conti pubblici del nostro paese. È già stato ribattezzato il caso delle pensioni d'oro. C'è sempre un po' di demagogia in queste semplificazioni a uso dei giornali, ma in genere sottintendono anche un tema di equità sociale vero. Questa volta si tratta di 160.000 tra alti dirigenti e funzionari, soprattutto pubblici, che hanno stipendi superiori i 200.000 euro annui e percepiranno nei prossimi anni assegni di pensione superiori del 20% del loro già alto ultimo stipendio. È un frutto avvelenato della riforma Fornero che, non si sa con quanta malafede nella stesura tecnica delle norme, ha consentito questa conseguenza quando ha stabilito che fosse possibile lavorare fino a 70 anni senza più un vincolo di versamento di 40 anni dei contributi. È una conseguenza non voluta del passaggio dal sistema retributivo, cioè si versa in un fondo e si ripartisce tra chi va in pensione, con dei limiti, a quello contributivo, cioè più versi più prendi. In termini di spesa pubblica, questa anomalia costa quest'anno 2 milioni di euro e in 10 anni, se non interrotta, salirà a 1,5 miliardi. Non bisogna essere moralisti, ma se per la generalità dei lavoratori la pensione oggi è circa il 70% dell'ultimo stipendio e per i giovani che la percepiranno chissà quando sarà sempre meno, pensare che esiste l'ennesimo circolo di ottimati, di personale soprattutto pubblico, che può contare su una pensione pari al 120% dell'ultima retribuzione è davvero anomalo, anzi è davvero troppo. Invece adesso ci occupiamo di Juncker, ma non per lo scandalo fiscale, detto anche l'Huxleaks, quanto perché secondo il Financial Times ormai ci dovremmo essere sul piano di Juncker quei famosi 300 miliardi di investimenti per l'Europa. Temevamo che ci fosse troppa grazia a Sant'Antonio. In realtà, secondo il Financial Times, vi sarebbero 21 miliardi di euro, cioè pari sostanzialmente a un punto neanche e mezzo di PIL italiano, che dovrebbero essere alla base del cosiddetto Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, una garanzia di capitale che si assumerà i rischi che gli investitori attualmente non vogliono correre. Per questo, secondo il piano Juncker, che sarà in grado di attrarre nuovi capitali fino a raggiungere 315 miliardi di movimentazione complessiva. I progetti saranno finanziati da una nuova autorità gestita dalla Banca Europea per gli Investimenti, la BEI, e dalla Commissione Europea. C'è una lista provvisoria che questa task force ha raccolto, su cui poi lavorerà in realtà la nuova autorità. I fondi che verranno messi a disposizione dai governi nazionali saranno scomputati dal deficit, come dicevamo, progetti presentati fino a 1.800 per ora, per un totale di 1.100 miliardi. Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore sui temi europei, buonasera. Buonasera. Allora, io vorrei capire una cosa, ma la montagna ha partorito un topolino o in realtà c'è di più, o c'è un po' di ottimismo nel dire che con 21 miliardi ne mobilitiamo 315? Io prima di rispondere a questa domanda vorrei, diciamo, esercitare un certo patriottismo di testata, perché questi dati che ha dato il Financial Times c'erano anche nel pezzo che abbiamo scritto oggi. per cui, ecco, tanto per dire, anche il Sole 24 Ore fa le stesse cose del Financial Times. Detto ciò, la montagna partorirà un topolino in apparenza, nel senso che questi 21 miliardi, a quanto pare, c'è appena stato un briefing, non saranno nemmeno usati nella loro totalità, perché questi 21 miliardi sono divisi tra 5 della Banca Europea degli Investimenti e 16 di garanzie da parte del bilancio europeo, soltanto che di questi 16 miliardi di garanzie ne verranno utilizzati soltanto 8. Quindi detto stiamo già scendendo dal livello, 8 ecco, più 5 fa 13. Detto ciò, diciamo, questo briefing con tanto di tecnici eccetera eccetera sostiene che valutare l'effetto moltiplicatore in 1 per 15 sia addirittura una stima prudenziale. Ora, naturalmente tutto si può dire, il contrario di tutto, finché non si vedranno diciamo, la proposta formale che passerà per un testo legislativo approvato dal vertice europeo di dicembre, poi dal Parlamento europeo. Quindi, diciamo, per ora continuiamo a ragionare su diciamo, una situazione abbastanza ancora nebulosa. Soprattutto dal punto di vista dell'effetto leva, se sì, quello che io non capisco, 15 infatti, eccetera. Secondo loro sarà addirittura più di 15. Ma da quello che tu hai capito, Adriana, scusami, perché abbiamo visto che tra l'altro l'Italia è il paese che ha mandato più progetti per una somma totale pari a 87 miliardi per il triennio 2015-2017, però i vari progetti riguardano settore energia, economia digitale, salute, ambiente, trasporti, ma io non ho capito, c'è una garanzia piccola dei fondi europei e il resto dovrebbero metterli privati, ho capito bene? Sì, certo. Il problema è che questo fondo, che dovrebbe appunto godere della tripla A, uno dei problemi che avrà tra l'altro sarà quello che non potrà diciamo, finanziare progetti ad altissimo rischio, perché altrimenti potrebbe perdere la tripla A. In più il fatto che ci siano queste garanzie vengono prese da alcune voci di spesa che ci sono nel bilancio europeo attuale, perché sì, altrimenti ci sarebbe bisogno di una decisione, diciamo, del Parlamento, che è un'autorità di bilancio, e del Consiglio per cambiare l'assetto del bilancio. Questo non si vuol fare perché farebbe perdere tempo, ma il fatto che tu vada a prendere delle rubriche di spesa, si parla di Horizon 2020 eccetera, vuol dire che tu quei soldi che erano destinati a quella rubrica li devi tenere fermi come garanzia, perché chissà mai che un progetto che viene finanziato non vada a buon fine, quindi quella garanzia andrebbe esercitata e sborsata fisicamente. Quindi questo vorrebbe dire che Horizon perde una parte dei fondi, insomma. Ma è un po' quello che scrivevo oggi, è il gioco delle tre carte. Il gioco delle tre carte. Vedi che ti stavo per citare, Adriana, se mi davi tempo ti stavo per citare, perché a me era piaciuta molto l'espressione. No, a me era piaciuta molto l'espressione il gioco delle tre carte. Oppure potremmo parlare anche di Amuinna, tutti si muovono, chi sta a prora va a poppa, chi sta a poppa va a prora, però cambia poco. Ecco perché volevo arrivare al tuo commento di oggi, in cui tu definisci appunto ingegneria finanziaria. E vabbè, e non è una brutta parola, però siamo già sul fronte dell'ingegneria finanziaria, e soprattutto nel titolo la crescita non diventi il gioco delle tre carte, avanzi il sospetto che obiettivamente sì, sono dei fondi che presi da una parte vengono messi da un'altra, ma non ci sono fondi nuovi, possiamo dirlo in maniera molto limpida questo. Esatto, e poi vorrei sfatare un altro luogo comune che abbiamo visto molto trattato in questi giorni, la famosa storia della rivoluzione dello scorporo degli investimenti dal calcolo delle deficit. Allora, sembra ormai assodato, sempre da questo briefing appena terminato, che saranno scorporati dal calcolo del deficit solo i fondi che volontariamente gli Stati membri daranno a questo fondo europeo. Ora, qual è il punto? La domanda è, sì, ma perché gli Stati membri dovrebbero dare questi fondi? Risposta, perché dovrebbero magari finanziare qualche grosso progetto nazionale. No, signore, questi fondi che eventualmente verrebbero dati al fondo europeo verrebbero messi nel calderone per finanziare i progetti economicamente più, cioè, fammi capire, interessanti. Poniamo che l'Italia, quindi, metta 2 miliardi, li può levare dal, esatto, deficit, però il punto è che questi 2 miliardi vanno nel fondo europeo e magari vanno a finanziare il Portogallo o la Polonia. Per cui, certo, ho capito, potresti anche titolarlo Cornuto e Mazziato il prossimo editoriale, se avanti così, no? Nel senso che... Però uno... c'è di peggio, se mi posso permettere. Beh. Nel senso che se questo stesso progetto non venisse, diciamo, venisse finanziato dal nuovo fondo europeo e fosse in parte cofinanziato dallo Stato membro interessato, cioè l'Italia con i 2 miliardi invece che metterli nel fondo europeo, che andrebbe erga, certo, omnes, come, ma lo metterebbe, diciamo, sul progetto, che ne so io, della Milano-Palermo, ecco, quei 2 miliardi lì che l'Italia metterebbe quale investimento, non verrebbero scorporati dal calcolo del deficit, ricadrebbero semplicemente nelle regole normali del patto di stabilità. E anche questa è un'altra, come dire, è un'altra verità molto scomoda per chi ha affermato che oramai c'è la rivoluzione dello scorporo nel calcolo degli investimenti. Allora resta con noi Adriana, perché dopo il metro e la pubblicità ascoltiamo anche due dei passaggi dell'intervento di Papa Francesco sull'Europa, sugli ideali europei oscurati dai tecnicismi dei burocrati o tecnicismi burocratici, e poi vorrei capire a questo punto quale potrebbe essere, superato il giro di boa del Jobs Act e soprattutto legge finanziaria o legge di stabilità, la prossima mossa dell'Italia, perché a me sembra molto chiaro, mi era già chiaro stamattina leggendo il tuo editoriale, la crescita non diventi gioco delle tre carte, ma con quello che ci hai appena aggiunto della fine delle ultime notizie che hai su questo, mi sembra chiaro che tutta questa roba è un po' fuffa, permettimi, tu non lo puoi dire, me lo dico io, cioè va bene, si prendono dei soldi, si crea un fondo che è una specie di contentino con bassa disponibilità, perché io non ho ancora capito come si possa arrivare a un effetto leva 1 a 15, non ho ancora capito perché con 1 miliardo ci dovrebbero essere dei privati che ne mettono 14 o 15, e soprattutto non è vero che i paesi ne avrebbero un vantaggio, tu metti soldi, chissà poi dove vanno, sì certo, quei 2 miliardi che vessi non li conteggi nel deficit, ma magari non ti tornano nemmeno indietro, e a quel punto devi spiegarmi, ti sei privato di 2 miliardi e non hai avuto nessun ritorno. Dopo il meteo. Da più parti si recava un'impressione generale di stanchezza, di invecchiamento, di un'Europa nonna e non più fertile e vivace, per cui i grandi ideali che hanno ispirato l'Europa sembrano aver perso forza attrattiva in favore dei tecnicismi burocratici delle sue istituzioni. A ciò si associano alcuni stili di vita un po' egoisti, caratterizzati da un'opulenza ormai insostenibile e spesso indifferente nei confronti del mondo circostante, soprattutto dei più poveri. Si constata con rammarico un prevalere delle questioni tecniche ed economiche al centro del dibattito politico, a scapito di un autentico orientamento antropologico. Chissà chi applaudiva e chissà se qualcuno si è sento chiamato in causa in questo giudizio di Papa Francesco. Vedo alcuni che scrivono: adesso fate sentire pure il Papa. Beh, se parla di Europa, di tecnicismi burocratici, lo facciamo sentire. Poi risponderò anche alcuni sul canone Rai. Allora, Adriana Cerretelli, la domanda è molto semplice. Mentre do anche un aggiornamento sulla vicenda Jobs Act, perché c'è un documento dei 30 deputati del PD, non lo voteranno, tra i firmatari Cooper, Lobindi, Boccia, Zoggia e Dattorre, mentre dovrebbe arrivare forse tra 10 minuti il voto finale sulla riforma del mercato del lavoro. Dicevo, Adriana, chiuso il Jobs Act e chiusa la legge di stabilità, ma secondo te a questo punto ci sono due possibilità: o il Presidente del Consiglio Renzi continua a raccontarci che l'Europa si sta muovendo in una nuova direzione, ma noi continuiamo a non vedere questo tradursi in pratica, e anche il gioco delle tre carte di Juncker su questi fondi lo dimostra, oppure si decide il governo italiano ad andare in Europa a gennaio o magari anche a dicembre, visto che c'è un consiglio importante, e battere veramente i pugni sul tavolo. Adriana. Ma questo mi sembra piuttosto improbabile, anche perché potrebbe batterli sostanzialmente da solo, nel senso che l'altro paese che è in difficoltà per certi aspetti più, addirittura più gravi delle nostre, è la Francia, ma non può permettersi di battere nessun pugno sulla tavola, perché senza lo scudo francese la Francia è persa, si trova in una situazione di fronte ai mercati addirittura peggiore della nostra. Quindi no, non direi. Io credo che per esempio oggi la critica spietata che il Papa ha fatto al modo di governare oggi l'Europa, con tutte le conseguenze economiche, sociali, finanziarie che ci sono state, sia un qualche cosa, cioè la cosa che mi ha colpito è che tutta l'area, tutta l'aula gli batteva le mani, dall'estrema sinistra all'estrema destra, no? Nel senso che forse è riuscito in qualche modo a fare riflettere anche i super rigoristi. Ecco, detto questo, bisogna anche essere realisti, cioè oggi la Germania è in una situazione in cui debolezza dei suoi partner le consente di fare quel che vuole. È tristissimo. Il piano Juncker è l'ennesima riprova. Schäuble all'Ecofin di Milano in settembre aveva detto che non ci sarebbero stati fondi freschi, e fondi freschi non ci saranno, punto. Cioè Breaking news. Sì, nell'aula della Camera al Jobs Act, il voto proprio qualche minuto fa, il testo è stato approvato a Montecitorio con 316 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astenuti. Tra i 6 ci sono alcuni della minoranza PD Civatiani, mentre le opposizioni non hanno partecipato al voto. Tutti gli approfondimenti alle 18 in GR24. Grazie a Narita D'Ambrosio per questa breaking news. Adriana, ti faccio riprendere, però hai sentito, è passato alla Camera il Jobs Act, quindi poi deve andare anche al Senato. Allora facciamo una cosa per dare un po' di ordine al programma, ma era importantissimo avere questa notizia in diretta perché c'è stata un po' di scissione nel PD, lo raccontavamo, ma il Jobs Act è passato alla Camera. Allora traffico e poi riprendiamo il collegamento con Adriana Ceretelli da Bruxelles. Allora, di nuovo in diretta con Focus Economia, Adriana Ceretelli, tu ci invitavi a non farci illusioni e ricordavi l'appello di Papa Francesco. Io spero che l'applauso sia vero, non come quello che vedemmo quando il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, parlò al Parlamento insultando la politica, io me lo ricordo ancora, e tutto il Parlamento applaudiva gli insulti. Allora, qui non siamo arrivati agli insulti, diciamo alla critica, però non vorrei che fosse un applauso un po' ipocrita, Adriana. No, non c'era un'atmosfera di ipocrisia, c'era un'atmosfera semmai di imbarazzo, nel senso che quest'uomo ha detto delle verità sull'Europa, cioè il fatto che per esempio diciamo l'uomo e la dignità dell'uomo sia stata, come dire, bistrattata e venga bistrattata sotto tanti aspetti, non solo quello economico-sociale ma anche quello etico, per esempio, tra l'altro è partito molto forte nel criticare come dire la manipolazione della vita a tutti i livelli, dall'aborto fino ai vecchi, l'eutanasia, fare quel che si vuole di chi non ci fa più comodo, insomma diciamo ha fatto un discorso speriamo che sia entrato nelle orecchie speriamo. Ormai siamo solo alla speranza, Adriana. Io ti ringrazio per le tre carte. Speriamo dalle tre carte non passare a blef vero e proprio e non beccarci la stangata, per usare la metafora che tu oggi utilizzavi sul Sole 24 Ore. Grazie Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. intanto la borsa, che la borsa continua a viaggiare in un mondo parallelo, più 0,40% oggi Milano, più 0,30% Parigi. Dico parallelo perché dopo gli avvertimenti, le stime riviste di crescita modesta per il 2015, ma più 0,40% Milano, più 0,30% Parigi, più 0,70% Francoforte, invariata Londra, l'America invariata. Cioè le economie che vanno meglio sono quelle in cui la borsa cresce meno in questi giorni. Comunque, in realtà è chiaro che da noi pesa in senso positivo lo spread basso sotto i 140 punti, il rendimento dei BTP di nuovo in calo. Autogrill più 2,60, Pop Emilia Romagna più 2,30, Mediaset più 2%, Ubibanca più 1,90, Intesa San Paolo più 1,70, Mediolanum più 1,50 come ST Microelectronics, Banco Popolare più 1,40 come Exor, Enel più 1,30, Mediobanca più 1%, Azimut più 0,90. E invece World Duty Free meno 1,30, Tod's meno 1,20, CNH meno 1,1, Tenaris meno 1, Jux meno 0,80, Ferragamo meno 0,60%. Non è una seduta indimenticabile. Comunque, Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Vabbè, delle banche abbiamo già detto sostanzialmente, World Duty Free da un lato, Autogrill dall'altro, e ho visto anche Saipem muoversi bene oggi, poi è un po' ritracciato, eh. Sì, allora per quello che riguarda World Duty Free si tratta in gran parte di prese di beneficio. Ieri il titolo aveva corso molto sulle indiscrezioni di possibili operazioni straordinarie di fusione e acquisizione in Asia, e per cui oggi ha ritracciato leggermente. Un discorso strettamente simile lo potremmo fare su Autogrill, perché abbiamo visto come spesso le due società della famiglia Benetton si muovano a giorni alterni. Ieri era stata World Duty Free a concentrare gli acquisti, oggi invece si sono concentrati su Autogrill, pur in assenza di novità particolari. L'unica spiegazione in qualche modo può essere il leggero indebolimento del dollaro, visto che comunque il titolo è molto sensibile anche all'effetto cambio. Allora, per quello che riguarda altri titoli, c'è Telecom oggi, Patuano, il numero uno, ha rassicurato gli azionisti ribadendo che non sono previsti aumenti di capitale, non è allo studio né in Italia né in Brasile, poi ha detto che c'è stata un'offerta su Metro Web. Per quello che riguarda i titoli, devo dire che oggi mancavano veramente tanti spunti, di World Duty Free tu hai già raccontato. Sul fronte Biancamano invece? No, sul fronte Biancamano è una società più piccolina, oggi ha guadagnato l'11,41% dopo che ieri a borsa chiusa ha annunciato un accordo con Kinexia per proporre i suoi servizi anche all'estero. Biancamano si occupa soprattutto di gestione e trattamento dei rifiuti. In passato ha avuto molte difficoltà anche per i pagamenti in ritardo della pubblica amministrazione che avevano pesato sui conti dell'istituto, quindi questa vocazione internazionale in qualche modo può metterli più al riparo. E allora chiudiamo con un altro titolo piccolo, Damiani più 12. Sì, per quello che riguarda Damiani il mercato attende un po' la trimestrale che sarà approvata venerdì prossimo, quindi si scommette sui conti. Certo, le indicazioni arrivate oggi dal settore del lusso non sono eccezionali, ci sono stati diffusi conti di Tiffany che non sono stati particolarmente positivi, con un calo vistoso dell'utile anche dovuto al rallentamento del mercato in Asia. Peggiori titoli invece: bonifiche ferraresi meno 8%, IMSI meno 5,30, Key Group meno 3,90, Media Contact meno 3,50. Bene invece oggi anche Tiscali più 5,20, oggi proprio andiamo con i decimali, più 5,20%, e Eurotech più 5,66%. C'è il GR24, poi torniamo per parlare del contratto dei bancari, del Jobs Act e dei dati macroeconomici diffusi oggi. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di una rottura che è arrivata abbastanza sorpresa, e ossia quella del contratto nazionale dei bancari e poi i dati diffusi oggi da Moody's e Oxen. Allora, mentre il Jobs Act a questo punto passa direttamente al Senato, vedremo come terrà la maggioranza lì, ma non c'è più, diciamo, approfondimento, ve l'avevo annunciato, ma chiaramente è arrivata la notizia, abbiamo fatto anche la breaking news prima delle 18, la rottura si è svolta invece tra l'ABI, e quindi le banche italiane da un lato, e i sindacati che rappresentano i bancari, cioè 309.000 lavoratori e 37.000 del credito cooperativo. Allora, c'è una proposta di contratto dell'ABI che avrebbe comportato a partire dal 2015 tagli sul costo del lavoro per 500-600 milioni, che per chi entra oggi nel mercato del lavoro bancario significa più o meno 3.200 euro in meno all'anno di stipendio, il 20% in meno e il 10% in meno di pensione. Eppure niente da fare, l'ABI ha comunicato, l'Associazione delle Banche Italiane ha comunicato che, o meglio ha diffuso un comunicato definendo anacronistica l'indisponibilità dei sindacati a valutare positivamente le aperture dell'ABI stessa, che ha portato all'attuale situazione di stallo, e poi ha confermato la volontà di continuare a confrontarsi a tutto campo con i sindacati senza alcun intento strumentale, ma con l'esigenza di adeguare il settore a scenari nuovi e profondamente diversi. Vediamo di capire invece, perché l'ABI l'abbiamo invitata, ma oggi non era possibile avere, tra l'altro le trattative per l'ABI le conduce Alessandro Profumo, che ha la delega su questo, ma domani vedremo se riusciremo a avere gli interlocutori dell'ABI. Intanto ringrazio Lando Sileoni, segretario generale della FABI, la Federazione Autonoma Bancari, principale sindacato del settore. Sileoni, buonasera. Sì, buonasera, grazie a lei. Perché avete rotto, inteso non me, ma rotto la trattativa? Abbiamo rotto anche me fra un po', perché ne parliamo da mesi sto contratto dei sindacati, però perché avete lasciato il tavolo? Abbiamo rotto perché non c'erano le condizioni per andare avanti, nel senso che l'ABI vuole il blocco strutturale della sterilizzazione del TFR e degli scatti di anzianità. Significherebbe che ogni lavoratore rimetterebbe circa 1.700 euro ogni tre mesi, e in cambio ci danno un aumento dell'inflazione pari all'1,85%. Le due voci, TFR e scatti, valgono per il 2,40%, quindi paradossalmente dovremmo pagare di tasca nostra per rinnovare il contratto. Sì, però, risponda anche all'ABI, certo. Sì, vorrei rispondere all'ABI. Noi l'ABI ci ha definiti anacronistici, no? Uh-huh. Ecco, in due battute, noi siamo anacronistici perché difendiamo chiaramente fino in fondo i diritti dei lavoratori, ma uh-huh, sono moderni loro che hanno creato 171 miliardi di sofferenze e soprattutto 68.000 posti di lavoro in meno dal 2000, quindi loro sono moderni. Sono dei riformisti da questo punto di vista, tanto vero che abbiamo perso 68.000 posti di lavoro. Insomma, mi verrebbe da dire da quale pubblico viene la predica. Vabbè, io però ho l'obbligo, il dovere, insomma, di difendere l'ABI, che è assente, l'avevamo invitata ma appunto oggi non sta parlando, parlerà forse domani. Immagino che l'anacronistico sia riferito alle loro aperture, cioè a un certo momento sto contratto dovrete pure chiuderlo, no? Perché voi avete avuto una diminuzione di 28.000 dipendenti dal 2008 ad oggi come mondo bancario, no? Una chiusura di 1.000 sportelli. Però, dico, tra l'altro, visto che il segretario della FISAC, altro sindacato, dice che ci sarà uno sciopero generale da realizzarsi a gennaio, voi siete d'accordo sullo sciopero generale? Sì, ma non è il segretario della FISAC che proclama lo sciopero. Lo sciopero non è stato ancora proclamato. Abbiamo un orientamento unitario, quindi tutte le sette organizzazioni, otto, perché c'è un'altra al secondo tavolo che è unità sindacale, quindi molto probabilmente daremo un indirizzo di sciopero per metà gennaio, però prima dovremmo effettuare, perché così ci impone la democrazia ed è giusto che sia così, dovremmo effettuare l'assemblea fra gli stessi lavoratori, quindi andremo con un indirizzo preciso alle assemblee, molto probabilmente faremo sciopero il secondo da metà gennaio. Tenga presente che ci saranno anche il blocco delle relazioni sindacali nei gruppi, e comunque insomma una trattativa con una pregiudiziale così pesante però, Silvione, adesso non la possiamo chiudere. Ok, ma faccia capire a tutti quelli che sono in ascolto perché avete interrotto le trattative, per la richiesta dei tagli, è questo sostanzialmente? No, noi abbiamo un grosso timore che dopo Sì, ma non si interrompe una trattativa per il timore, Sileoni. Si interrompe perché c'è qualcosa. Allora, noi abbiamo la certezza, gliela metto in maniera politicamente corretta, noi abbiamo la certezza che l'ABI non voglia rafforzare, come abbiamo chiesto noi nella nostra piattaforma, l'area contrattuale. Che cos'è l'area contrattuale per chi non la conoscesse? È lo strumento che ci permette di gestire i piani industriali e soprattutto le fusioni, ed è l'unico strumento che noi abbiamo per garantire la tenuta degli attuali livelli occupazionali, che sono 309.000. Quindi se l'ABI invece vuole, come poi ci ha anche confermato oggi, indebolire l'area contrattuale, significa che appena inizieranno le fusioni, anche a causa dell'esito degli stress test, noi non avremo più uno strumento contrattuale per difendere i 309.000 addetti del settore, con tutto quello che lei può immaginare, quindi licenziamenti anche di massa. Ecco, siccome noi vogliamo invece un contratto nazionale che garantisca gli attuali livelli occupazionali, questo è l'argomento sociale dal nostro punto di vista più importante. Mi scusi, quindi in realtà siete più possibilisti sull'ipotesi di tagli sul costo del lavoro e meno sull'area contrattuale, ho capito bene? Noi, per noi l'area contrattuale è un argomento imprescindibile. Ma invece i tagli sul costo del lavoro è la nostra bussola a livello politico. Noi sul costo del lavoro noi abbiamo già più volte dichiarato in sede ABI che siamo disponibili a trovare delle soluzioni nell'ambito non strutturali, cioè non per sempre come chiede ABI, ma nell'ambito dei tre anni. Però, Silvione, della durata del contratto. Diciamola tutta, se sul costo del lavoro ci sono punti di caduta, cioè punti di compromesso, il vostro timore sull'area contrattuale è perché vi aspettate che nel futuro vi siano fusioni e acquisizioni bancarie, perché sennò... Ma sì, lo sanno tutti, insomma, che... Ah no, ce lo dica anche lui. Ecco. Sì, lo sanno tutti, nel senso che c'è una rivoluzione in atto nel sistema bancario nostro, diciamo così, e quindi è indispensabile per noi garantire al meglio gli attuali 309.000 addetti. Se non avessimo uno strumento come quello dell'area contrattuale, avremmo già sventolato bandiera bianca nei confronti delle banche, questo non ce lo possiamo dire. Vabbè, ma adesso da qui allo sciopero c'è possibilità di risiedersi al tavolo o andate diritti allo sciopero a gennaio? Guardi, l'ABI sa perfettamente quello che dal nostro punto di vista dovrebbe fare, no? Noi non siamo, già gliel'ho detto un'altra volta, un sindacato antagonista, no? Noi dobbiamo sempre gestire i cambiamenti in atto nel settore, ma non possiamo accettare delle pregiudiziali, cioè il blocco del TFR, degli scatti d'anzianità e soprattutto il mancato riconoscimento, cioè l'indebolimento dell'area contrattuale, per noi sono elementi inaccettabili. Quindi quando rimuoveranno queste loro pregiudiziali, noi sicuramente saremo molto disponibili, come sempre abbiamo fatto, a sederci e a riprendere appunto le trattative. Sta di fatto che andiamo alle assemblee per programmare una giornata di sciopero che sarebbe il secondo. Tenga presente, lei lo sa benissimo, erano 13 anni che la categoria non scioperava. Il primo sciopero l'abbiamo fatto qualche mese fa, quando l'ABI ci disdettò il contratto nazionale. Sì, me lo ricordo bene. Quindi secondo me c'è qualcosa che non va per il verso giusto, cioè manca il senso di responsabilità appunto da parte dei banchieri. Vabbè, mi sembra di capire che i margini o l'ABI accetta di tornare sui suoi passi per quello che riguarda la piattaforma contrattuale, o se no mi sembra di capire che si va dritti verso lo sciopero. In bocca al lupo comunque a tutti i dipendenti, 309.000 più i 37.000 del credito cooperativo del mondo bancario. Io mi auguro che si arrivi in realtà a un accordo. È ovvio che non faccio né sindacalista né l'arbitro né il mediatore, però insomma laddove non c'è un accordo è chiaro che è sempre una brutta notizia. Grazie comunque al segretario generale della FABI Lando Sileoni. Brutte notizie ma bella musica, vabbè, almeno qualcosa nel programma, no, me la scrive un ascoltatore. Allora, una buona notizia invece c'è e riguarda la Lucchini e quindi Piombino, la acciaieria Lucchini di Piombino. Praticamente poco fa si è saputo che il comitato di sorveglianza ha dato l'ok all'offerta dell'Algerina Cevital, perché presenta condizioni più vantaggiose di quella concorrente. Una nota della Lucchini al termine del comitato di sorveglianza e quindi... dovrebbe aggiudicarsi la Lucchini di Piombino il gruppo algerino Cevital. Allora, volete del commenti sul canone? Allora, abbiamo sentito cosa diceva il vice ministro alle comunicazioni, in realtà sottosegretario alle comunicazioni, Giacomelli. Sì, il governo metterà, ha confermato il canone nella bolletta elettrica. È ovvio che in base a chi ha il televisore, molti mi dicono: allora io butto via il televisore, io non voglio vedere la RAI. Ho capito, ma scusatemi, in questo caso non è che voglio difendere la RAI, ma è una legge dello Stato, c'è un canone, va pagato. Se poi uno in questi anni non l'ha pagato, diciamo, non può vantare un principio di legalità. Poi uno può discutere se sia giusto pagare o no il canone e se la RAI faccia con questi soldi servizio pubblico oppure no. Ma non mi potete dire: no, ma allora io gli ridò il televisore, l'elettricità non la paga. Cioè, chi non l'ha pagato, diciamo, ha sbagliato finché non cambia una legge sul canone. Su questo non ci sono dubbi. Comunque, traffico. Minuti, ultima parte di Focus Economia. Sì, adesso chiedo la regia, insomma, va bene tutto, ma trasformare il programma nel cocoricò anche no. Allora, i dati economici e macroeconomici di oggi. Moody's che dice: la crescita americana aiuterà la ripresa mondiale, anche perché oggi dagli Stati Uniti è arrivato un dato sulla crescita economica nel terzo trimestre più alto delle attese, più 3,9%. Moody's invece, sempre Moody's, rileva come Italia e Spagna siano vulnerabili nonostante le operazioni della Banca Centrale Europea, e l'OCSE torna a dire: l'Italia avanzi con le riforme, l'Italia tornerà a crescere nel 2015 ma di uno 0,2%, nel 2016 forse all'1%. Questo nel giorno in cui abbiamo scoperto probabilmente che il famoso piano Juncker butta poco, o come dice Adriana Ceretelli, è il gioco delle tre carte. Professor Franco Bruni, buonasera. Buonasera. Lei insegna economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano. Insomma, non ne usciamo. Io mi ricollego a quanto scrive oggi la Ceretelli, che abbiamo avuto ospite nella prima ora, sul piano Juncker. Sono in realtà 21 miliardi contati male, perché poi sono 15 che dovrebbero, secondo il piano Juncker, sviluppare chissà perché investimenti per 300 miliardi. Non sono soldi freschi, vengono presi da un altro fondo. E in aggiunta mi sembra che nessuno stia neanche ipotizzando una diversa lettura del patto di stabilità. Quindi abbiamo scherzato, Bruni? Non lo so, credo che se i progetti ci fossero sul serio, fossero convincenti, diciamo che fare leverage su un certo quantitativo di risorse potrebbe risultare convincente in giro per il mondo. Il problema è che i nostri governi e il governo europeo nel suo insieme dubito che siano in grado di presentare elenchi di progetti convergenti. Il denaro non manca a questo mondo, il problema è che manca la capacità di gestirlo in modo produttivo. Qui non si tratta di pompare domanda in un mondo che non funziona, si tratta di far funzionare il mondo. Però voglio dire, da un lato è paradossale vedere che, insomma, sia l'OCSE ma soprattutto Moody's dicono: beh, sarà la crescita americana un po' ad aiutare quelli europei. Io mi chiedo, oggi c'è stato anche un botta risposta, la Bundesbank dice: no, la deflazione non è un pericolo alto, invece l'OCSE dice: no, la deflazione è il pericolo europeo. Ma quando io vedo l'OCSE che dice: il prossimo anno l'Italia farà lo 0,2, deve ancora iniziare il 2015, faccio notare, siamo già alla revisione della crescita. Bruni, non è che facciamo un altro 2015 come il 2014, come il 2013, che partiamo dicendo che ci sarà un po' di crescita e poi il terzo trimestre diciamo che la crescita è scomparsa, così miracolosamente scomparsa. Se non facciamo le riforme, non mettiamo a lavorare la gente nei posti giusti e li togliamo dai posti sbagliati, non cresceremo mai. Quindi se ci pigliamo anche un anno o due in più per riorganizzare il tutto, compreso l'Europa, non solo l'Italia, alla fine cresceremo. È inutile continuare a guardare a questa crisi come un fatto momentaneo, diciamo, di breve periodo, certo, dopodiché dietro l'angolo c'è chissà che cosa. C'è l'angolo, dietro l'angolo c'è un altro angolo contro il muro, come ha scritto, e ci vanno a sbattere tutti, compresi i tedeschi e compresi gli americani, che stanno bucando tutto il loro sottosuolo per tirar fuori questo +2, +3, che sono semplicemente in gran parte i risultati di questa di questa bolla sul gas che probabilmente, se il prezzo del petrolio continua a crollare, a un certo momento scoppia anche quella, insieme a qualche banca americana molto molto indebitata. Quindi è bello dello shale gas, chiaramente oggi il petrolio ha fatto un altro meno 2%, ecco. Ma allora, professor Bruni, ho capito cosa dice lei, non preoccupiamoci, se l'anno prossimo facciamo 0,2-0,4, facciamo le riforme che mettono il paese in maniera più competitiva e quindi meno oneri impropri, penso alla pubblica amministrazione, ma non solo, maggiore efficienza e maggiore merito, aggiungo io. Però le chiedo una cosa, in questo momento mi sembra che tutti siano preoccupati sulla crescita, ma i mercati finanziari, il mercato del debito italiano, non è mai stato così tranquillo. Secondo lei questo vuol dire che sta funzionando la rete di protezione, cioè che intanto in questo momento non c'è un problema di tenuta dei debiti sovrani, quindi abbiamo un po' più di tempo almeno per fare le riforme? In questo momento la liquidità è talmente abbondante che va a investirsi dappertutto, compresi i titoli di Stato degli italiani. Non c'è scampo, non è quello un indicatore di salute. Il fatto che i tassi siano bassi è un indicatore di debolezza, è un indicatore di droga, è un indicatore di... Quando l'economia funziona i tassi cominciano a alzarsi, da sicuro, perché sale la produttività. Quindi in questo momento stiamo tranquilli, ma perché sedati, per usare il suo esempio, cioè sedati con un po' sì, di... Siamo sedati, c'è un momento di... diciamo di risk off, in cui si va a cercare delle attività relativamente più sicure, e in definitiva il debito pubblico periferico anche dell'Europa risulta in questo momento fra le attività non considerate particolarmente rischiose, visto che c'è anche così una certa maggiore attenzione della Germania per la sua periferia, da cui capisce di essere sempre più interdipendente. E da lì non potrebbe arrivare una svolta, Bruni? Nel senso che se continuano i dati deludenti della Germania, forse cambia ulteriormente l'atteggiamento tedesco, o no? O sono un illuso? Speriamo veramente di sì, io lo spero molto, e credo che anzi ci sia già qualche segno di cambiamento all'interno del governo tedesco. C'è persino chi pensa di cambiare il trattato, anzi, che lo ha detto esplicitamente. Bisogna cambiare il trattato per fare un'Europa più unita, che faccia delle politiche insieme, e allora sarà veramente possibile rilanciare l'economia. Sì, ma non capiterà domani, questo mi sembra abbastanza chiaro, però sono d'accordo con lei che in questo momento c'è una situazione di droga, di sedativo, per cui i mercati vanno bene, lo spread cala, vanno bene per carità, con alti e bassi, ma insomma anche oggi abbiamo visto in borsa, nessuno guarda i dati macroeconomici perché c'è molta liquidità e c'è questo grande cappello, ombrello, scudo, chiamatelo come volete, della Banca Centrale Europea, grazie allora anche a Franco Bruni. Arrivederci. Ed è veramente tutto anche per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo domani, come sempre, dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.